Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Io lavoravo per una grossa banca italiana, mi è stato detto non possiamo promuoverti perché sei troppo giovane. In più il programma che noi avevamo in mente di farti fare, che doveva, era un programma di formazione della durata di 3 anni, tu ce l'hai completato in 8 mesi. Tu sei un problema, se ci fosse la giusta opportunità verrei qui su una gamba sola. Io dico sempre, se dovessi tornare in Italia mi taglierei volentieri anche del 30% il mio stipendio, ma non me lo taglio del 70%. Oltre al fatto che all'estero c'è una situazione dove si ha veramente la meritocrazia, non guardano all'età anagrafica prima di dare una posizione o una promozione, ma guardano alle effettive capacità. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi ancora una testimonianza, l'ultima che vi proponiamo, dal meeting degli oltre 400 studenti ed ex studenti di 21 tra le più importanti scuole internazionali svoltosi in Liguria, quella di Luca che focalizza un problema, forse il problema. Nonostante tutto, continuiamo ad essere un paese culturalmente allergico ai giovani e al merito. I migliori sono un problema da noi, davvero pazzesco. La testimonianza è stata raccolta da Claudia Vanni. Vi ricordo anche che prosegue l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, tra poco tutte le istruzioni per partecipare e partire per Strasburgo. E la frase della settimana, copyright del ministro dell'istruzione Stefania Giannini, conferma quanto bisogno di svecchiamento ci sia ancora in questo paese. L'università è in parte ancora dei baroni, è un paradosso perché tende a conservare, pur essendo cuore dell'innovazione, della creatività e del cambiamento. Il ministro ha quindi parlato dei giovani ricercatori che lavorano all'estero, cervelli in fuga per cui bisogna creare, ha detto, condizioni di mobilità senza farle passare come una punizione o una fatalità. Si può misurare la meritocrazia? Ci ha provato il sito lavoce.info, che ha stilato una classifica europea dei paesi più meritocratici sulla base di precisi parametri quali qualità del sistema educativo, attrattività per i talenti, trasparenza, regole e mobilità. In questa classifica l'Italia risulta 12esima e ultima, alle spalle delle prime 3 nazioni sul podio, tutte scandinave, Finlandia, Danimarca e Norvegia, davanti a noi pure Polonia e Spagna. Ne risulta la fotografia di una società sostanzialmente opaca nei meccanismi di selezione, con una bassa mobilità e un sistema di regole poco trasparente. Questa è la conclusione amara dell'articolo a firma Balduzzi, Nelia Rosina. Meno opache appaiono le procedure di selezione poco oltre il confine, nella vicina Svizzera. E poi c'è il fattore meritocrazia, che all'estero conta ancora molto. Ha contato molto, e qui da noi, come anche in tante altre aziende svizzere, esiste veramente la gestione per obiettivi, quindi i collaboratori vengono regolarmente valutati sulla base del raggiungimento degli obiettivi annuali. Per chi li raggiunge o li supera si aprono opportunità. Martina Bellodi, 38 anni e coordinatrice dell'ufficio traduzioni delle Poste Svizzere a Berna. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Italia, una nazione in fuga, così titola un articolo del sito britannico CAPEX, che racconta la fuga dei talenti tricolore. Tra le citazioni quella del giornalista del Financial Times Ferdinando Giuliano, che dice: l'Italia sta perdendo buona parte della sua potenziale classe dirigente a tutti i livelli, politici, tecnocrati, imprenditori. 23 miliardi di euro, a tanto ammonta lo spreco in termini di investimenti in capitale umano compiuto dall'Italia tra il 2008 e il 2014 a causa del forte incremento della popolazione emigrata. La stima cautelativa è stata tracciata in un recente articolo del quotidiano La Repubblica, secondo il quale, moltiplicando le spese per istruzione del nostro capitale umano immigrato per i flussi di espatrio, si arriva a questa stratosferica cifra. Nel solo 2013 l'Italia avrebbe regalato 1,5 miliardi in capitale umano alla Gran Bretagna e altri 650 milioni alla Germania. Buone notizie, le start-up made in Italy continuano a crescere al ritmo di oltre un centinaio al mese. A inizio marzo erano 3.397, a riferirlo il Sole 24 Ore. Le nuove imprese lavorano soprattutto nel settore dei servizi, hanno un capitale sociale di 48.000 euro, contano in media 4 soci e impiegano quasi 3 dipendenti l'una. Cattive notizie. Secondo Cerved, dall'inizio della crisi sono fallite in Italia 82.000 imprese, bruciando 1 milione di posti di lavoro. Il 2014, l'anno più nero, oltre 15.000 fallimenti. E il mercato del lavoro italiano nei 6 anni di crisi è invecchiato, con oltre 1 milione di over 55 occupati in più e quasi 2 milioni di under 35 in meno. E quanto emerge dalle statistiche Istat, i più giovani sono passati da quasi 7 a 5 milioni di occupati. Nella fascia 25-34 anni si sono persi quasi 1,5 milioni di posti di lavoro. Ed è allarmante il fatto che in Italia nel 2012 quasi un giovane su tre under 25 non lavorasse né risultasse iscritto ad alcun corso di studio, con un incremento di ben 10 punti rispetto al 2008 per l'OCSE. Peggio di noi fa solo la Spagna. A proposito di NET, gli inattivi disponibili che non cercano lavoro in Italia sono il triplo di quelli europei, a fotografare la situazione l'Istat. E quanto costano i giovani inattivi? Nel 2012 il danno economico causato sia dall'aumento della spesa pubblica sia dalla mancata produttività è stato pari ad oltre 35 miliardi per l'Italia. Siamo primi in Europa davanti a Francia, Gran Bretagna e Spagna, lo denuncia Eurofound. Fino al 5 maggio è possibile inviare la propria candidatura per partecipare al programma di accelerazione di Luis & Labs, la fabbrica delle start-up. Le imprese selezionate riceveranno 60.000 euro di investimento. Info su luisandlabs.com/applications. E c'è tempo fino al 15 maggio per partecipare agli Italy Made Me Awards, promossi dall'ambasciata italiana a Londra, mirati a valorizzare i migliori giovani ricercatori in Gran Bretagna. Per candidarsi, italymademe@ambitaliascienza.london. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta poco oltre il confine, rotta verso la Svizzera tedesca, dove andiamo a esplorare una professione molto particolare, puntata dedicata al mondo delle lingue, quella di oggi. Nome: Martina. Cognome: Bellodi. Età: 38 anni. Città di origine: Finale Emilia. Studi: traduzione. Anno in cui hai lasciato l'Italia: nel 2009. Per andare dove? In Svizzera. Perché? Per curiosità e voglia di mettermi in gioco. Quale lavoro svolge attualmente? Sono responsabile del servizio linguistico della Posta Svizzera. Dove? A Berna. Tornerai? Forse da pensionata. Se trascorro spesso le ferie in Italia, rimpatriare al momento non è un mio obiettivo. Talvolta mi chiedo cosa starei facendo se non fossi mai partita, e l'immagine che vedo non mi è particolarmente allettante. Se tornassi indietro rifarei senz'altro le stesse scelte. Martina, nel mondo ipotetico delle sliding doors, l'Italia resta l'opzione tendenzialmente scartabile per un professionista qualificato? Non del tutto scartabile, nel senso che più si è qualificati più credo si abbiano chance anche in Italia, però effettivamente rispetto a paesi come la Svizzera il quadro è un po' più fosco e le opportunità un po' inferiori. E questo è il problema di opportunità. Le lingue sono la tua passione, all'università scegli traduzione, sede di Forlì, inglese e tedesco. Perché proprio traduzione? È un'attività molto antica che crea ponti fra le culture, quindi permette alle persone di comunicare, persone che normalmente non si comprenderebbero, quindi in un certo senso rende il mondo un posto un po' migliore. E che giudizio dai del periodo universitario in Italia? Pollice su o pollice verso? Decisamente molto positivo, soprattutto il numero ridotto di studenti ci permetteva veramente di essere seguiti molto bene dai docenti e ci ha garantito una formazione di altissimo livello. Dopo la laurea, i primi 7 anni di lavoro sono in Italia e sono anni di lavoro autonomo. Apri una partita IVA, diventi freelance. Allora, perché nella penisola questa è l'unica opzione alla fine per un traduttore? Diciamo che è in realtà una delle poche opzioni, oppure la principale dappertutto, cioè l'attività di traduzione pura è molto orientata al lavoro freelance. Attraverso il mondo delle lingue si può leggere l'apertura e la proiezione internazionale di un paese. Questo è importante. Dipingiamo spesso l'Italia come provinciale. Allora, dal tuo osservatorio linguistico, sei d'accordo? Come la definiresti? Escono in continuazione anche pochi giorni fa articoli che mettono l'Italia ai fanalini di coda nelle classifiche di conoscenza delle lingue, e penso che purtroppo rappresentino un po' la realtà, cioè siamo ancora un po' indietro rispetto ad altri paesi europei, anche se esistono isole d'eccellenza. Quindi studiamo, sì, purtroppo le lingue, sì. Studiamo. Esatto. Il lavoro non ti manca, nel giro di un anno e mezzo ti crei un buon network di committenti e grazie al tedesco approdi al mercato svizzero. Perché la Svizzera, cominciamo a spiegarlo fin d'ora, rappresenta un bacino così redditizio per i traduttori? È un paese in cui vengono parlate 4 lingue ufficiali a seconda della regione in cui ci si trova, quindi tutte le istituzioni e le aziende attive a livello nazionale devono poter comunicare e raggiungere le persone che parlano tutte queste lingue. Quindi viene tradotto tantissimo e la traduzione è parte integrante dei processi di comunicazione del paese. Allora, prima di lasciare l'Italia dobbiamo però toccare un tasto dolente, quello dell'imposizione fiscale. In un paese dove il resoconto annuale delle dichiarazioni dei redditi è uno schiaffo in faccia agli onesti che le pagano, i numeri come sempre non tornano, l'evasione resta un'asta enorme. L'imposizione fiscale era diventata un incubo per te a fronte di 50 ore settimanali di lavoro. Quanto se ne andava del tuo guadagno in tasse? Era circa la metà, circa il 50%, ma quello che rendeva il tutto ancora più difficile era il fatto che cambiavano in continuazione le regole. Ricevevo la chiamata dalla commercialista per informarmi che l'aliquota era stata modificata e questo creava anche incertezze e difficoltà di pianificazione a medio termine. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Martina Bellodi, 38enne coordinatrice dell'ufficio traduzioni delle Poste Svizzere a Berna, un incarico di responsabilità al suo giunto dopo la laurea e diversi anni di lavoro in Italia. Nella penisola riesce a mettersi in proprio, avviando un'interessante attività come freelance, ma l'imposizione fiscale appare eccessiva. Prova così la carta svizzera, in pochi anni dopo essere approdata alle Poste elvetiche al gradino più basso, scala le posizioni. Martina non smette però di guardare all'Italia e sta esplorando un suo personale progetto di riconnessione. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Dopo 7 anni di lavoro come traduttrice freelance e forte dell'esperienza accumulata con la Svizzera, decisi nel 2009 di contattare diverse istituzioni e aziende elvetiche per effettuare un periodo di lavoro all'estero, ricordi? Chi ti rispose e cosa ti offrì? Mi risponde il responsabile del servizio linguistico della Posta, che mi offre uno stage di 6 mesi retribuito a Berna. Grazie a una riorganizzazione interna, dopo pochi mesi si apre una posizione di staff come traduttrice ed è in quel momento che decidi che il tuo progetto iniziale di tornare in Italia, dopo la classica esperienza all'estero, è destinato a finire in soffitta. Perché ti decidi a questo passo? La mia spinta principale era non dire di no a una porta che si apriva, quindi mettermi in gioco. L'attività freelance la conoscevo, l'avevo vista, avevo lavorato già 7 anni e quindi ho pensato che potesse essere buono provare qualcosa di diverso. La Svizzera, per via del suo quadrilinguismo, è uno dei pochi paesi in cui i traduttori possono aspirare a posizioni da dipendenti presso aziende o istituzioni, chiarisci. Altrettanto incredibile, dico, è la progressione di carriera che compi in 5 anni, a un'età giovane per gli standard italiani. Ce la riassumi brevemente? Anche a causa di questa riorganizzazione che è proseguita per diversi anni, ho cambiato varie funzioni. Sono passata dopo un anno a dirigere un team di traduttori, quelli per l'italiano. Poi ho lavorato come project manager nella gestione dei mandati di traduzione e sono arrivata successivamente a dirigere il team di project manager che avevo anche la responsabilità sull'informatica e i processi ed ero vice del capo e per finire un anno fa è stato messo a concorso il posto appunto di responsabile e partecipando al concorso ho ricevuto l'incarico appunto di responsabile. Da italiana under 40 ora dirigi la divisione traduzione delle Poste Svizzere. Esatto, sì, siamo 33 collaboratori. Martina, quanto ha contato in questa progressione di carriera l'applicazione di una meritocrazia reale basata su risultati concreti? Ha contato molto e qui da noi, come anche in tante altre aziende svizzere, esiste veramente la gestione per obiettivi, quindi i collaboratori vengono regolarmente valutati sulla base del raggiungimento degli obiettivi annuali. Per chi li raggiunge o li supera si aprono opportunità, soprattutto quando l'azienda riconosce un potenziale. Infatti tu ci scrivi: il mio datore di lavoro ha creduto nelle mie possibilità e nel mio potenziale. Concretamente come poi ti ha anche aiutato? Mi ha finanziato diversi corsi di formazione per approfondire le conoscenze che insomma erano ancora un po' lacunose visto la mia specializzazione in traduzione e comunque ha sempre garantito la possibilità di candidarmi anche se venivo dall'interno, ecco, non ha sempre cercato all'esterno per posizioni che si aprivano. C'è un ultimo aspetto molto interessante che riguarda il tuo personale esperimento di riconnessione con l'Italia ed è uno spunto che ci serve per introdurre poi l'ospite della puntata. Cosa stai facendo nel tuo piccolo in termini anche di riconnessione appunto col paese? Diciamo che siamo in contatto dal punto di vista professionale con le università, non solo italiane ma anche estere, per offrire posti di stage a giovani che escono dalla scuola di traduzione. Poi magari lavoreranno come freelance, qualcuno rimarrà in Svizzera, però diciamo ci sembra importante garantire queste esperienze lavorative per chi viene dalla scuola. Esperienze di formazione all'estero che sono sempre molto importanti. Come vedi l'Italia dall'estero, Martina? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? È una cartolina bella ma un po' sbiadita, c'è un po' mancanza di fiducia al momento, non lo so, un suggerimento mio sarebbe un po' di parte, ma dare un po' più chance alle donne. Credo ci sono ancora proprio poche donne occupate in posizioni di responsabilità, spesso pagate molto peggio dei colleghi uomini, e mentre in realtà avrebbero ottime, appunto, un grande potenziale e vengono da brillanti carriere accademiche, quindi perché no dare una chance alle donne. Ci raggiunge ora in linea Rafael Lozano Miralles, direttore del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione della sede di Forlì dell'Università di Bologna. Buenas tardes, che tal? Muy bien, usted. Professor Lozano, le chiedo subito un commento esterno alla storia di Martina. In Italia una carriera come la sua sarebbe stata possibile o immaginabile? Una carriera come la sua è un esempio di come il merito e la formazione e credere in se stessi sia stata riconosciuta. Sicuramente in Italia sarebbe molto più difficile, molto più difficile. Perché? Perché? Perché? Perché in Italia il merito è sempre collegato a qualcosa che non è sempre inteso come puro merito o pura capacità di saper fare, e spesso è legato a raccomandazioni, tradizioni familiari, eccetera, eccetera. E questo e quindi è molto interessante sentirlo dire da lei, che è straniero, che da esterno sta giudicando e analizzando il nostro paese, vivendoci. Questo, attenzione, sono riflessioni su cui dovremmo ragionare di più per cambiare e migliorarci. Una domanda provocazione, professore. Sì. Se tutti i giovani espatriati avviassero esperimenti di riconnessione, come lo abbiamo appena detto, sta cercando di fare Martina, quanto ne beneficerebbe l'Italia? Della famosa fuga dei cervelli è qualcosa alla quale non credo molto, nel senso che i cervelli hanno sempre girato il mondo indipendentemente da momenti di crisi economica o no. È chiaro che in questo momento c'è un problema di occupazione giovanile e di ricambio generazionale. In Italia il ricambio generazionale è lentissimo, lo vediamo cosa è successo negli ultimi anni. Questo ricambio generazionale fa sì che molti dei giovani vadano a cercare lavoro dove effettivamente c'è. In Italia il lavoro per i giovani drammaticamente in questo momento ancora non c'è. E invece dovremmo avviare un circolo virtuoso, lo ha detto lei stesso, far uscire però poi far tornare, valorizzare chi si è formato, ha lavorato all'estero, questo è l'obiettivo di tutti, e attrarre, diventare attrattivi per professionisti stranieri. Sì, ma anche questo sarebbe collegato a una politica di stipendi decenti. Esatto, esatto, assolutamente vero. Professor Lozano, i dati della Commissione Europea mostrano come in 7 anni il fatturato dell'industria linguistica si è raddoppiato un po' in tutti i settori. Allora io le chiedo, in Italia il sistema delle imprese italiane mostra una internazionalizzazione sulla base della sua esperienza? Se lo osserviamo attraverso la lente dell'industria linguistica o viviamo in uno splendido isolamento? Diciamo che il fatturato delle cosiddette industrie del linguaggio, che sono cose abbastanza evolute, nel senso che si parla non solo di traduzione e interpretazione, ma di localizzazione di software, di siti web, di creazione di strumenti per lo sviluppo delle tecnologie linguistiche, di sottotitolaggio, di doppiaggio, di insegnamento, di organizzazione di conferenze, vedo che in Europa è in costante crescita, ma anche a livello planetario è in costante crescita. Però purtroppo non è in crescita in modo evidente in Italia. Se vogliamo dire, possiamo immaginare un'Italia a due velocità, è un vecchio come concetto, sei? Ma purtroppo c'è un maggiore sviluppo al nord e direi sugli aspetti di punta dell'industria del linguaggio uno zero o quasi a sud. Dobbiamo recuperare. Sì. Professore, qual è il suo personale consiglio a un giovane che oggi intraprende una carriera da interprete o traduttore? Qual è soprattutto il paese migliore forse dove lavorare se si guarda all'estero? Studiare molto, che è la cosa più importante. Dimostrare di avere una gran passione, di credere in se stessi e soprattutto voglia di muoversi. E quindi vado alla sua seconda domanda, dove lavorare? Nel mondo direi, un interprete e un traduttore sono per definizione quello che possiamo chiamare traghettatori di conoscenza tra mondi e culture diverse, no? E ad esempio i posti dove lavorare sono... Uno è la Svizzera, un altro è il Belgio, un altro potrebbe essere la Germania in questo momento. Grazie al professor Rafael Lozano Miralles. E domanda di rito a Martina Bellodi: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Sicuramente prepararsi, studiare bene prima cosa si vuole fare, dove andare, prendere i contatti, se ci sono già conoscenti, amici che vivono in un paese, sfruttare anche queste reti perché sono molto importanti, e andare allo sbaraglio secondo me può portare risultati buoni in qualche raro caso, ma in genere insomma richiede tantissime energie. e prosegue l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino al 16 maggio. Quest'anno raddoppiamo le opportunità, che riguarderanno un totale di 8 ascoltatori tra i 18 e i 40 anni. Per partecipare è necessario inviare da ora fino alla mezzanotte di domani una email a concorsoeuropa@radio24.it con una proposta concreta. Il tema di questa settimana: indicateci una proposta in 140 caratteri per facilitare il rientro in Italia dei migliori talenti dall'estero e attrarre i migliori professionisti stranieri. Quindi rientro e attrazione dei talenti. Inviateci le vostre proposte in 140 caratteri con i dati di contatto a concorsoeuropa@radio24.it e pubblicatele su Twitter con l'hashtag GiovaniTalentiUE. Attenzione, inviate le vostre proposte solo fino alla mezzanotte di domani e nell'oggetto non dimenticate di scrivere la parola chiave, che è Europa 5. Ripeto, parola chiave Europa 5. I primi 4 classificati si aggiudicheranno altrettanti viaggi studio al Parlamento Europeo di Strasburgo, i classificati dal 5° all'8° posto 4 biglietti di ingresso al padiglione europeo di Expo 2015. Vi ricordo ancora la casella email concorsoeuropa@radio24.it. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'ufficio di informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su radio24.it. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di Giovani Talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi vogliamo condividere con voi una lettera che ci ha fatto davvero piacere ricevere. Non è arrivata da un ascoltatore, ma da uno dei nostri ex protagonisti qui a Giovani Talenti. Stiamo parlando di Paolo Faleschini, architetto di stanza a Rotterdam, la cui storia vi abbiamo raccontato 3 mesi fa. Paolo ci ha scritto per comunicarci che, grazie alla nostra trasmissione, un giovane collega ha avuto un'opportunità di lavoro in Olanda. È bastato ascoltarci il sabato, segnarsi il suo nome e contattarlo per qualche dritta. Il resto della storia ce la racconta proprio Paolo. Noi continuiamo a invitarvi a scriverci le vostre migliori lettere, le leggiamo in onda ogni ultimo sabato del mese. L'email giovanitalenti@radio24.it. Ciao Sergio, come va? Volevo raccontarti una bella storia. Dopo la mia intervista a Giovani Talenti mi hanno contattato un paio di ragazzi per chiedermi qualche consiglio. Ovviamente ho risposto loro e li ho consigliati a quali uffici rivolgersi. Ci siamo scambiati un paio di mail. In generale si lamentavano della situazione italiana e cercavano di trovare una via di fuga. Domenica scorsa uno di questi ragazzi mi ha mandato un'email dicendo che si trovava a Rotterdam. Da mercoledì sera inizierà a lavorare in uno studio di 3D visualization, contratto di 7 mesi. Quindi ci siamo trovati per un caffè e gli ho dato un paio di consigli organizzativi. Volevo solo dirti che con la tua trasmissione abbiamo dato una nuova opportunità di lavoro ad un giovane 28enne. Ciao, Paolo. Un motivo per restare o tornare. L'associazione AISMA ha aperto un bando mettendo a disposizione dei giovani ricercatori 3 milioni per gli studi sulla sclerosi multipla. Con il bando 2015 AISMA e la fondazione FISMA hanno deciso di aumentare la durata potenziale del percorso scientifico di carriera di giovani ricercatori fino a 7 anni e per facilitare il rientro dei ricercatori dall'estero anche quest'anno viene valutata l'assegnazione di una borsa Rita Levi Montalcini triennale insieme a un finanziamento per un progetto di ricerca autonomo. I ricercatori possono presentare le proposte fino al 15 maggio scaricando il modulo su aism.it. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti, la stringa del mese Giovani Talenti UE. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di aprile: l'Italia è ancora il paese dei raccomandati? Quanti raccomandati conoscete che non hanno mai inviato uno straccio di curriculum per guadagnarsi il posto? È ancora utile essere figlio di in questo paese? E per ogni raccomandato incapace, quanti giovani bravi e senza santi in paradiso se ne vanno? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, candidatevi giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buon 25 aprile da Sergio Nava.